Buongiorno Marco e buon venerdì. Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. In questa puntata, allora, come già vi ho accennato più volte, parleremo della mobilità del futuro, ecco perché abbiamo scelto questo motore del 2000 che Dalla già ci proponeva in chiave molto pulita, diciamo, no? Esatto, bellissima canzone che c'entra il tema odierno della puntata di Agora in Onda, in cui ci soffermeremo insieme al nostro ospite, l'ingegnere Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica dell'Automobile Club d'Italia. A quale diamo il buongiorno? Certamente, buongiorno. Lo salutiamo in collegamento telefonico, al quale ovviamente abbiamo sottoposto la puntata odierna sul tema della mobilità del futuro, tra tecnologia e sostenibilità. Allora, benvenuto Enrico, grazie di aver partecipato nuovamente alla trasmissione Agora in Onda e ti chiedo subito cosa intendiamo per sostenibilità e soprattutto ACI che cosa intende per sostenibilità. Noi la basiamo su tre pilastri, come mi piace dire, in ordine di importanza. Il primo pilastro è la sicurezza. Una mobilità è sostenibile se è sicura per chi si sposta. Al secondo posto certamente il rispetto dell'ambiente, quindi che sia in linea con tutte le nuove direttive ambientali, emissioni eccetera. Al terzo posto, non meno importante delle altre due, che sia economicamente sostenibile, perché spesso ci lasciamo andare dalla fantasia, anche da nuove tecnologie, ma poi dobbiamo fare i conti con i nostri redditi, con la disponibilità economica anche nazionale. Con la realtà dovremmo fare i conti. Esatto. Quindi oggi affrontiamo il tema, un tema sicuramente interessante, quello della mobilità del prossimo futuro, e vedendo anche come la tecnologia potrà essere di ausilio e soprattutto quel concetto di sostenibilità che Dalla cantava anche nel brano che abbiamo poc'anzi ascoltato, un motore pulito e silenzioso. Però vediamo che cosa può significare pulito e silenzioso con tutte le tecnologie che oggi esistono sul mercato, perché chiaramente l'evoluzione tecnologica ha sicuramente portato delle innovazioni e quindi dei vantaggi non soltanto in termini ambientali ma anche economici, e quindi capire qual è lo scenario e in che direzione sta andando l'industria automobilistica, dando dei consigli il più possibile oggettivi ai nostri radioascoltatori che si trovano di fronte alla scelta di dover sostituire un veicolo e soprattutto quale scelta dover fare nell'interesse, come dicevi tu, della sostenibilità intesa in senso ampio, quindi sicurezza per le persone, sostenibilità da un punto di vista ambientale e sostenibilità anche economica. Quindi questo per intendere un pochettino la tua parte introduttiva. Quindi certo, quali saranno, dal tuo punto di vista, che sei un tecnico, i cambiamenti più rilevanti nella mobilità, nelle aspettative degli utenti, i servizi di mobilità e le nuove tecnologie? Una domanda ampia, sì, e poi avremo modo di dipanarla nel corso della trasmissione. Diciamo, ecco, mi piaceva aggiungere come ulteriore premessa, sicuramente nel settore della mobilità sono in atto forti cambiamenti. Gli utenti sono diversi. Io ricordo la mia generazione, il mio obiettivo era avere la patente, avere l'auto di proprietà per sentirmi libero. Oggi, se vedo a mia figlia, le nuove generazioni, l'obiettivo primario è un altro, è spostarsi. Si spostano più di noi, vogliono andare in qualsiasi parte del mondo, però non è più l'autovettura di proprietà, non è più l'obiettivo primario, perché si arrangiano, io li vedo, cioè l'obiettivo è spostarsi, poi si fanno dare un passaggio, viaggiano insieme con gli altri, usano i mezzi di trasporto, l'obiettivo primario è spostarsi. Quindi il mover, si è passati, usando due termini inglesi, dal driver, il concetto, l'autonomia, io sono conducente, ho il culto della mia auto privata, al movers, alla persona che si vuole spostare. In più, questa persona vuole essere sempre connessa e sempre informata. Questo anche in relazione alle nuove tecnologie, pensiamo al telefonino per capirci. Quindi nel suo spostamento vuole avere queste due ulteriori componenti. Quindi anche in questo contesto il concetto esatto. di condivisione di oltre condivisione a... è importante, no? Dice la sharing, parliamo di sharing economy, qui parliamo di sharing mobility, cioè non viene più, non è più un tabù condividere il mezzo di trasporto con altri. Questo è importante perché anche nell'organizzazione del sistema io devo tener conto di queste nuove tendenze. Quindi sullo sharing ci torneremo anche più avanti quando faremo un accenno a quello che può essere la mobilità pubblica in questa nuova prospettiva, perché se l'obiettivo esatto. è muoversi vedremo anche come è possibile farlo, come assolvere questo desiderio, cioè l'utilità, come rispondere a questa utilità che viene chiesta. Altri due cambiamenti forti del settore sono, lo dicevi tu prima, la tecnologia che sta facendo passi da gigante. Ci abbiamo le auto, anche loro sono connesse, sono a guida assistita, presto saranno anche autonome, andranno da sole, e poi c'è un discorso proprio di motorizzazione elettrica che ha messo in discussione certe scelte del passato dei motori a combustione per tutta una serie di motivi che magari poi approfondiamo. Dall'altro lato sono cambiati anche i servizi di mobilità, prima parlavo del telefonino, cioè adesso sul telefonino riusciamo a trovare risposte a questo nostro desiderio di spostamento, cioè io posso scegliere come andare da un punto a un altro, quindi da un'origine a una destinazione, e addirittura dopo che ho scelto come spostarmi posso addirittura acquistare i servizi sul telefonino, biglietto del treno, del bus, con annessi e connessi, prenotare il car sharing quando arrivo a Milano o addirittura l'albergo e il ristorante. Quindi ci sono anche nel settore, stanno uscendo nuovi intermediari. Questo, siamo nel settore del mobility as a service, cioè la mobilità come un servizio che poi ha riflessi anche diciamo dal punto di vista degli operatori. Quindi la connessione non soltanto all'interno dell'autovettura, ma la connessione nel sistema più ampio anche del trasporto in generale. Sì, trasporto e servizi. Esatto, quindi perché è molto, molto più ampio. Quindi una velocità anche in questo che consente una mobilità più facile, più sostenibile diremo, ma non solo quando parliamo di sostenibilità, non soltanto da un punto di vista ecologico, ma sostenibilità anche dal punto di vista della qualità dei servizi offerti, perché dobbiamo sempre fare il rapporto, come dicevi tu all'inizio, tra costi e benefici. Ecco, su questo rapporto tra costi e benefici, l'auto del futuro, il motore del 2000, come recitava Lucio Dalla, quale sarà la tendenza nei prossimi anni? Perché noi sentiamo parlare di ibrido, elettrico, il gasolio che dalle testate giornalistiche sembrerebbe essere sul punto di scomparire a Roma nel 2020. Una volta tanto osannato, adesso invece... Esatto, vuoi farci invece capire se effettivamente è così, se chi dovesse comprare un'autovettura da un lato oggi? Abbiamo detto, da un lato c'è bisogno di inquinare di meno, cioè e questo ci occorre lo mettiamo una mobilità come... che inquina di meno, no? Ci abbiamo delle direttive, gli accordi di Parigi, il terzo pacchetto del libro bianco della mobilità che è uscito il mese scorso della Comunità Europea, ci dicono dovete mettere meno CO2 e meno polveri inquinanti, polveri sottili, NOC, senza che ci dilunghiamo. Quindi questo diciamo che deve essere un dogma, cioè lo dobbiamo tener conto, però come ci arriviamo? Allora ecco qua, io devo dire, assisto, soprattutto se vado a leggere i media o gli annunci, qualche fake news c'è. Perché intanto diciamo che le case costruttrici non hanno, nonostante i proclami, vedi Marchionna l'altra settimana, non faremo più auto diesel, non mi ricordo l'anno che ha detto adesso, perché poi cambiano sempre questi anni, 22, 25, 20. Se non sbaglio sono arrivati al 29, se non sbaglio. Sì, ecco, dice, non faremo più auto diesel. Però se poi andiamo a vedere i veicoli che sono in vendita o che vengono, ma basta andare all'ultimo salone di Ginevra, andare a vedere i veicoli che presentavano le diverse case di tutto il mondo, l'80% era costituito da veicoli diesel. Quindi una scelta di campo non è stata fatta, perché se vado a leggere queste fake news sembrerebbe che da domani, dal prossimo anno, dobbiamo essere tutti elettrici. Allora guarda, facciamo una cosa, fermiamoci un attimo Enrico, poi dopo proseguiamo, abbiamo la pubblicità. Poi ci parlerà in modo particolare di questa che è appunto il motore diesel che continua a essere presentato appunto come innovazione, tra le altre cose, perché se la macchina è nuova è un'innovazione, giusto, no? Ok, allora facciamo una pausa, torniamo tra poco, resta in linea con noi, eh? Il motore del 2000. Eccoci qua, tornati in diretta allora, e abbiamo anche il nostro ospite telefonico quest'oggi, Enrico, buongiorno di nuovo. Buongiorno. Eccoci un'altra volta insieme. Allora, stavamo parlando del motore diesel e stavi facendoci capire che effettivamente vengono ancora prodotti e proposti al pubblico. Sì, diciamo, da un lato c'è, sembrerebbe una criminalizzazione, come se fossero i motori che inquinano più di tutti, dall'altro invece le case costruttrici seguitano a proporcelo, perché la gamma che propongono, gran parte dei modelli sono diesel. Allora, c'è da dire una cosa: nell'ultimo periodo ci sono stati grossi miglioramenti dal punto di vista dell'inquinamento, mi riferisco in particolare alla Euro 6, soprattutto nell'ultima generazione inquina molto poco, addirittura ci sono misurazioni che dimostrano che veramente siamo quasi fuori scala in termini di inquinanti, NOx, polveri sottili, si ha difficoltà proprio a misurare l'emissione del motore. E questo è vero, perché se andiamo a vedere le tabelle normative e confrontiamo l'Euro 6 col 5, 4, 3, 2, 1, c'è un Euro 1 che inquina 28 volte quanto un Euro 6, ecco, questo per dare una dimensione, no? Il problema è che in Italia abbiamo un parco auto vecchio, più di quasi 10 anni e mezzo, l'età media, e significa che ci sono circa il 40% di Euro 3. Ora, il vantaggio grosso in termini di emissione si è avuto con l'Euro 4. L'Euro 4 nei confronti dell'Euro 3 inquina la metà, non siamo ai livelli dell'Euro 6, ma inquina la metà. Siccome parliamo di 36 milioni di autovetture, dire nel 2020 dovranno essere tutte elettriche ci sembra un po' difficile. Allora, che diciamo? Questo lo affermiamo come Automobile Club. Cerchiamo di rinnovare in prima battuta, perlomeno in questo periodo transitorio, fino a quando non ci sarà la scelta di campo che dicevo prima delle case costruttrici, che probabilmente sceglieranno l'elettrico, dico probabilmente, poi vediamo perché ancora non c'è questa scelta di campo, rinnoviamo il parco auto, cioè passare, abbiamo fatto una simulazione con i nostri modelli di simulazione, passare a un parco auto come oggi, con quel 40% di veicoli Euro 3 che significano veicoli di almeno 13 anni, a un parco auto che abbia solo Euro 4, 5 e 6 significa abbattere del 55% le emissioni. Quindi già con questa... Quindi seguiamo a comprare i veicoli che ci propongono i costruttori, però diamo incentivi a sostituire le auto vecchie. Questo è il grosso... Che sicuramente potrebbe essere un contributo in termini ambientali importanti. Importante. E anche di rinnovamento importante della tecnologia, che ha fatto dei passi da gigante. Chiaramente questo, va detto, si sposa con la condizione economica delle persone, esatto, quindi questo, esatto, va fatto poi il paio, come dicevamo all'inizio, con quella sostenibilità anche economica, che poi è alla base anche delle scelte che dovranno adottare le case costruttrici. Sì. Dicevi tu, il diesel, quindi... Non c'è questa dismissione immediata, quindi... No, anche perché ci sono delle case costruttrici, l'Audi in primis, che sta studiando insieme alla Bosch un motore che sembra che non emetta quasi niente. Ci sono degli accorgimenti, un motore diesel che non emette quasi niente. Io insisto sul motore diesel perché ingegneristicamente è quello che ha tra i maggiori rendimenti. Cioè, se devo fare una scelta, un ottimo economico, per esempio personalmente non andrei mai su un ibrido, perché un ibrido significa che io porto in giro due motori, uno elettrico e un altro o a benzina o diesel, quindi è un problema, non è un ottimo, uso il termine ingegneristico, mentre un ottimo in termini di emissione è un solo motore. Quindi tu dici l'ibrido contiene in sé due motori, uno due motori, tradizionale e uno elettrico. E se andiamo a fare il bilancio energetico non è l'ottimo. Quindi questo per quanto riguarda diciamo il meglio dal punto di vista della scelta, come dici tu, ingegneristica, dal tuo punto di vista tecnico. Chiaramente ci saranno poi le persone che invece questo modello piace, però da un punto di vista proprio della sostenibilità anche tecnica delle due tecnologie, sicuramente questo potrebbe rappresentare un po' un piccolo vulnus. Fermo restando che no, ammetto che effettivamente l'ibrido in città, in una città pianeggiante però, ecco, parliamoci chiaro, c'hai quei 50 km d'autonomia dove tu vai col motore elettrico e quindi non emetti in quelle aree dove c'è più congestione. Enrico, io volevo tornare un attimino alla puntata di marzo perché eravamo rimasti sul tema delle macchine appunto con le batterie, no? Sì. Ecco, il problema era anche le batterie, come smaltirle. Allora, poi qua c'è un discorso, per esempio si dice la macchina elettrica non emette niente, dice, quindi è gratis. Questo non è vero perché sappiamo bene che il semplice fatto del rotolamento delle ruote, dei freni, dei dispositivi frenanti, freni a disco, anche lì ci sono emissioni di polveri sottili certo, sostanze inquinanti, quindi non è proprio zero. Forse anche di più. Esatto. Quello che stiamo facendo insieme alla FIA, lo stiamo facendo insieme agli altri automobile club, stiamo andando a vedere, viene chiamato il ciclo di vita utile dei veicoli, quindi stiamo confrontando tutti i diversi veicoli, l'ibrido, l'elettrico, il benzina e il diesel, ma da quando vengono prodotti a quando vengono dismessi, quindi quanto io spendo nel produrlo, quanto io spendo nella fase di utilizzo, quando lo uso, ma quando poi lo smaltisco, e qui mi vengono in mente le batterie, il discorso delle batterie appunto elettriche che sono fortemente inquinanti. Non vorrei che creassimo un altro problema analogo a quello delle scorie nucleari. Quindi, scusa, allo stato ovviamente le batterie sicuramente in termini di emissioni di gas all'interno del circuito mettono sicuramente meno, però un problema che dovrà essere affrontato in maniera seria sarà quello dello smaltimento di queste e soprattutto anche nell'approvvigionamento. Nell'approvvigionamento, cioè ci sono queste sostanze, il litio, poi ce ne stanno uscendo delle altre, che non è che sono così, cioè anche quelle si stanno andranno a esaurimento, quindi non è una cosa infinita, a meno che non le troviamo su un altro pianeta, no? Certo. Come al solito poi. Però ecco, io ho visto delle immagini di un lago della Colombia dove è stato fatto una forte estrazione di litio e è cambiato, cioè è diventata quasi un deserto quella zona che prima era un bel lago, era molto rigogliosa, so se vi è capitato di vedere sì, le foto di quel sito, ecco, quindi non creiamo danni da un'altra parte, no? Perché per esempio ecco, il discorso dell'elettrica è molto complesso, c'è questo dello smaltimento, ma c'è anche un discorso di produzione di energia elettrica. Attualmente, a mio avviso, in Italia non ci sono le condizioni per promuovere la mobilità elettrica, non ci sono le colonnine di ricarica in primis, no? Cioè, tu dici nella parte infrastrutturale? Infrastrutturale proprio. Quindi credo che siamo ancora ai tempi del tram con i cavi attaccati sopra, no? Giusto? Ma peggio ancora, cioè, sappiamo che il problema delle auto elettriche è la ricarica. Infatti. Che se viene fatto in modo tradizionale, la chiamano ricarica lenta, hai bisogno di 7-8 ore per fare il pieno, quindi lo devi fare la notte. Ma mettiti succede di giorno, dice no, abbiamo ovviato, c'è la carica veloce, in 20 minuti ti diamo il 70% della tua autonomia. Il problema è che ricaricare in modo veloce è un po' come a casa quando accendo tutti gli elettrodomestici, ho bisogno di tanta potenza e salta la luce. Certo. Ecco, quindi immaginiamo una città come Roma, come Milano, con tutti che ricaricano, che ricaricano in modo veloce, perché si sono scordati di ricaricarlo la notte, e salta la luce, come si dice, no? Questo perché abbiamo delle reti infrastrutturali nate nel secondo dopoguerra e non sono dimensionate per questi carichi in più che gli darebbe il trasporto privato. Quindi, dal tuo punto di vista, attualmente sarebbe difficile poter sostituire la mobilità tradizionale. Io vedo, da un lato i proclami, dice abbandoniamo le auto, passiamo a quell'altro, dal lato non vedo invece che ci sia un movimento, una preparazione a andare sulla mobilità elettrica. Quindi per gli ascoltatori che dovessero decidere di rinnovare il proprio parco auto, quale consiglio daresti rispetto a questo, visto che le tendenze che tu hai declinato e soprattutto questo avviso che nel 2022 a Roma non dovrebbero circolare più auto con il motore diesel, con questo inquinante, ovviamente, perché emette emissioni in atmosfera. Quindi spero che siano solo i veicoli diesel più vecchi, su quello sono d'accordo. Fino a Euro 4? Almeno fino a Euro 4. Chi dovesse rinnovare, comprare una macchina usata, ovviamente tenuta sempre in buono stato, certo, perché poi ci vuole anche quello, però andare anche sull'Euro 4. Ecco, sottolineiamo, il diesel e benzina, diciamo, dipende un po' dall'uso che ne fai. Sottolineiamo questo che hai detto, deve stare in buono stato, perché anche una macchina Euro 5, se non è trattata bene e non è tenuta, potenzialmente è inquinante, giusto? Esatto. La manutenzione del parco veicoli sicuramente, perché questo incide poi sulla nostra qualità della vita. Esatto, ecco, poi nella scelta io metto sempre al primo posto che sia una macchina sicura. Ci sono, diciamo, dei siti, cito Euro NCAP, che ti dicono quanto è sicuro il veicolo che stai comprando. E poi, ecco, questo è importante, cioè essere precisi nella manutenzione, perché è importante. Faccio questo esempio estremo: una macchina sicurissima, 5 stelle Euro NCAP, quindi il massimo della protezione, ho un incidente o un guasto, non la riparo bene, non c'ha più quelle garanzie, certo, originarie. Quindi, ecco, su questo, quindi, abbiamo fatto un po' una panoramica, consigliando quindi ai nostri ascoltatori ancora sulle tendenze che ci saranno, quindi abbiamo detto, se anche in caso di acquisto di auto usate, privilegiare dall'Euro 4 in su, in ottime condizioni per quanto riguarda l'utilizzo del diesel. Sulla macchina a benzina, vedere bene, diciamo, l'utilizzo che se ne fa, sapendo anche il prezzo del combustibile. Ci sono sicuramente anche altre tecnologie, abbiamo detto l'ibrido, che però sconta due motori, e poi c'è l'elettrico oggi non è allo stato, almeno in Italia, non vedo le condizioni ancora allo stato per anche infrastrutturale, perché abbiamo bisogno di colonnine di ricarica, e su questo però magari in città coniugandolo insieme all'utilizzo del mezzo pubblico, l'uso dell'auto, ecco, qui va apriamo questa piccola faccio questo paradosso: se riuscissimo a sostituire tutti i veicoli attuali, tutte le autovetture, quei 36 milioni che dicevo, da un giorno all'altro riusciamo a farle diventare elettriche, comunque non abbiamo risolto il problema della mobilità delle nostre città, no, perché la congestione ce l'avremmo uguale. Quindi, in ambito urbano, oltre a ragionare in termini di veicoli meno impattanti dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, occorre ragionare in termini proprio di organizzazione della mobilità, quindi privilegiare sicuramente il trasporto pubblico, privilegiare sicuramente la sharing mobility, quindi condividere il mezzo. Per esempio, a me piacerebbe un centro città da proteggere, chiuso al traffico privato e aperto solo ai veicoli in sharing, magari tutti elettrici, perché no? Perché lì abbiamo brevi percorrenze, magari ci mettiamo qualche colonnina di ricarica, riusciamo. Quindi un vantaggio anche, oltre che da un punto di vista dell'emissione, anche da un punto di vista della rumorosità, perché all'interno del centro storico la qualità della vita migliorerebbe. Perché secondo me, tra le forme di inquinamento, oltre al rumore e a quel forme di inquinamento da traffico, oltre al rumore e alle emissioni atmosferiche, periferiche, c'è l'inquinamento intrusivo, quello volumetrico, una strada che vedi con le macchine in sosta in doppia fila o sul marciapiede, o una strada tutta bella organizzata, ordinata, dove sì c'è qualche veicolo in sosta ma sta dove deve stare, è tutta un'altra cosa. Certo. Quelle immagini che vediamo delle città del nord sono così. Certo. Ma io chiuderei questo appuntamento con una battuta, Enrico. Forse loro vogliono spingere la macchina elettrica per il semplice fatto che per ricaricarla ci impieghi 8 ore e riducono il traffico. Le macchine stanno ferme a ricaricarsi. Diciamo, questa sì, l'accetto essere... come battuta. Sì, chiaramente. Dietro ovviamente ci sono altri interessi economici. Certo, no, ma la mia era una battuta solo per questo. E in conclusione poi ti passo Marco per chiudere. Ma che cos'è questo asfalto magico? Ne hai sentito parlare, sì. Ti riferisci all'asfalto fatto con i pneumatici, con lo pneumatico. Che ne so, la settimana scorsa dice a Roma hanno provato a tappare le buche con l'asfalto magico, invece peggio di prima, che è successo? Beh, tappare le buche non è un buon rifare la strada. Ne abbiamo parlato l'altra volta, appunto, bisogna fare tutti e tre. Allora, l'asfalto magico è fatto con materiale riciclato, grossa parte deriva proprio dai pneumatici usati. Ah. È un buon sistema perché diciamo delle buone caratteristiche sia di nel tempo dura parecchio proprio per questa caratteristica della gomma del pneumatico, e poi ha tutta un'altra serie di vantaggi anche dal punto di vista della rumorosità eccetera, però c'è sempre un però. Sembra proprio quell'inquinamento da rotolamento che dicevamo delle polveri sottili viene un po' esaltato. Ah, ok, quindi può produrre. Esatto. Senti, in chiusura però, perché siamo purtroppo con il tempo che non possiamo prolungarci oltre, ti volevo chiedere qual è la differenza tra guida assistita e guida automatica, proprio diciamo uno spot tanto per far capire ai nostri radioascoltatori. Sì, allora, la guida automatica... L'auto va da sola, io sono un passeggero come del trasporto pubblico trasportato, pensiamo alla metro C di Roma, no? Senza conducente, quella è la guida automatica. Guida assistita invece ci sono delle tecnologie che subentrano, assistono il conducente quando fa gli errori, però in termini di responsabilità vale la Convenzione di Ginevra, che c'è un comandante, uso il termine schettino, responsabile di turno su questo veicolo ancorché a guida assistita. Oggi anche la tanto osannata Tesla, quella che va da sola, qualche volta va anche a sbattere, come diciamo a Roma, è ancora guida assistita. Da un livello da 0 a 6, dove 0 è tutto a carico del conducente, 6 guida completamente automatica come la metro C, come dicevo prima, la Tesla stiamo a 3. Quindi siamo ancora a livello di guida assistita. Oggi non è stata ancora prodotta e non è in commercio un'auto a guida autonoma. E questa sarà l'auto del futuro. E abbiamo iniziato la trasmissione con il motore del 2000 di Lucio Dalla. Ne abbiamo fatto una panoramica insieme a te, Enrico, e ti ringrazio per essere stato nostro ospite nella trasmissione Agora in Onda. Io ti faccio i saluti per il weekend. Ovviamente ti invito a venire intorno nella rassegna enogastronomica. Avremo cibo e ospiti di qualità, le eccellenze enogastronomiche da tutta la regione, quindi da tutta Italia, e quindi sicuramente un momento di sostenibilità in questo senso anche del rapporto con la qualità della vita. E quindi io ringrazio te, ringrazio Stefano e tutti i nostri radioascoltatori che ogni venerdì si sintonizzano sulle frequenze, che ogni giorno si sintonizzano sulle frequenze di Radio Onda Libera, e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Agora in Onda, in cui avremo un altro ospite in trasmissione. Grazie e buon weekend a tutti. Arrivederci. Ciao Enrico, a presto, alla prossima, naturalmente, perché poi se va in evoluzione il motore noi abbiamo bisogno di te, vogliamo sapere le novità che ci sono, ok? Va bene. Buon weekend, ciao, ti saluto. Anche a voi, arrivederci. Ciao Marco, a venerdì prossimo.